grazia a Cristo. Sì, quello lì. Ah, sempre funzionato bene, capito? l'altro giorno, tre giorni che non riuscivo a fare telefonare, cazzo, boh. Strano proprio, Poi tutte e tre mia moglie, e infatti mio figlio e di allora ci hanno lo stesso coglio. E loro si dicono, sono i nostri, quello mio e quello di mia moglie. Sì, adesso si è ripreso, ieri sera si è ripreso, infatti. Poi tu mi dicevo, funzionava oggi, stamattina andava me lo compravo nuovo, proprio deciso, E infatti ho visto che ieri sera ieri notte ha cominciato a funzionare bene, ha comprato il telefono, boh, tanto mi ha sempre funzionato bene, poi, sempre fatto apposta, il mio è quello di mia moglie. Questo significa che ho un problema, comunque a me non mi interessa, noi abbiamo la paglia della spesa, la legge, oppure questo quando non mi fa per i fai, adesso non è caro, adesso vediamo, sono come facciamo. Allora, sappiamo io, quello del gestore, io, mia moglie, mia nuora, e i miei nipoti di fronte a casa, allora non è successo niente, telefonavano tranquilli e pacifici, e invece i nostri, i miei, quello di mia moglie funzionava, la paravita era quello lì, capito? Troppo. Che isso da fare, certo, isso da fare, mi sa che se diventa una bella bionda, se diventi. Sicuro, soprattutto io che accesso, dai Giovanni, si sente poco. Dopo la cosiddetta poi in casa, a dopo. Che è acceso qua, prima di oggi è acceso qua. Beh, brutto buco. Cos'è successo? Illuminami. Comunque se capita, guarda, io ho il telefonino nuovo, se carico la carta sottomobile e li metto 20 notti, il telefono diventa bollente. Se invece in pratica la carta è scarica, funziona benissimo. È fatto due funzioni, sia la bollente sia la normale, il discorso è questo. Nuovo 2017, mai avuto un grafico, soltanto un mese, quindi figurati tu. A tratti stai uscendo ancora, non si capisce niente, stai uscendo tutto a tratti. Adesso mi senti? Fa passaggio. Ora, due, tre, quattro. Adesso va bene. E stavo dicendo, mi sono telefono io, con la sim della Poste Mobili. Capito? Quando cade il telefono, la SIM intrasegna il telefono in una bolletta. Invece quando la SIM è carica, il telefono rimane normale. Capito? Ma tutto è possibile. C'è una parte che c'è l'altra. E senza o con carica, discorso è questo. Il problema è che viene una bolletta nel vetro e anche dietro. Tutto lì. Se tolgo il wifi e i pedassi, il telefono funziona per lì. Detto il mio, quello di mia moglie, lo stesso lavoro, il mio e quello di mia moglie, tutti due insieme. Non lo so, comunque adesso, cazzo, rimesso a posto. Anzi, pensavo fosse la schiena, invece no, l'ho provato a spegnere, ho tolto la macchina, ho pulito con tanto, ha sempre funzionato bene, proprio tre giorni fa è successo questo particolare, capito? Tre giorni senza telefono, e meno male, ieri sera mi ha sentito e ha iniziato a funzionare bene, già, adesso sta funzionando bene. Io funzionava bene, cos'è questo? Faceva tutte le funzioni, quelle che volevi. Il problema che diventava dove c'è il vetro, e di esso bollente, capito? Non si poteva neanche tenere in tasca. Se tu andavi a fare qualcuno, appoggiare l'orecchio, non si poteva, perché tu c'è. Hai capito? Tutto lì. E mi stai ricavendati con la batteria, tutto lì. Se io trovo il wifi, che è la rete dati, il telefono funziona bene, il discorso è quello. Ma io l'ho smontato, l'ho tolto la batteria, terza, l'ho rimessa, niente da fare, anche quello di mia moglie, la stessa cosa, l'ho spento, tolto la batteria, rimpiazzato, bene, era la stessa cosa, non tirava, faceva tacca, poi si bloccava. Facevo il numero, tacca, e si bloccava, ma era serbata, non andava avanti, di che? Per tre giorni, dice. Però certi numeri riuscivo a parlare, certi numeri, certi non ci riuscivo, però la maggior parte non riuscivo a parlare, capito? Ma se telefono a te che mi rispondi, va bene, telefono a un altro e non mi risponde, non prendeva, boh. Così non ho capito il telefono adesso. Era anche un casino, non so più cosa usare. Conviene il telefonino, quello vecchio, modello vecchio, ma non ha problemi. Tanto con il modello nuovo si incasina, con gli aggiornamenti e roba del genere, pare che c'è un virus che si è frenato, si capisce. Il discorso è questo. E ti manda il telefonino nel tiro. Quindi a un certo punto, meglio bloccare prova di internet, adesso uscirà quel 5G, famoso, Huawei, e quindi avrai gente che si incasinerà a stare, te lo dico io. Oh, yeah, c'è un casino, c'è gente che non capirà una qualcosa di quei telefoni. Per carità. Poi ci vuole un ripetitore e un indicibile. Quindi andremo a finire, come per dire, vuoi che ti sentano un ripetitore sopra? Io dico no, a me non me la stai cantando. Guarda, devo piacere di un'altra parte. E basta il mio di antenna. Il fatto sta che per tre giorni non siamo riusciti a fare il telefonato. Capito? Ecco, faccio me. Però, ieri sera di nuovo ha cominciato per male a essere perfetto, infatti adesso è perfetto, però per tre giorni ha fatto quell'impetto, il mio e quello di mia moglie, anche quello di mio figlio, quello di mia nipotina, hanno lo stesso coso, allora la situazione è solo a noi, non capita a me, non lo so. Io telefono nuovo, cioè telefono vecchio, uso quello nuovo, diventa problema, ma di tanto diventa problema, è uno dei problemi, si carica anche la batteria, come si può si informa. Quindi a un certo punto, come telefoni ho qua, uso l'ultimo, che ho fatto 56 euro, quello della... l'ho preso alla... non la so perché. Ne devo sì, uso quello e lo fa tutti. E faccio tutto il problema. L'altro prendo e lo dico anche a me. Infatti, io quando ho tolto la macchina l'ho agganciata, questo qua, capito? Per cui non era perfetto, non pretendeva. Quando facevi i numeri. Ecco, facevo il numero e faceva boh, e si bloccava, capito? Dava un pulso, però si bloccava. Poi non è il mio solo, era qua anche quello di mia moglie. Infatti, la cosa strana era quello. Ha detto, vabbè, il mio era da TTT. Quello di mia moglie, tutti e due insieme. Sembrava una cosa strana, ecco. Sono i ripetitori quando scaldano la musica. Continuamente, specialmente, non arrivano a un certo tipo di... Siccome facciamo un appagamento capitanale, quindi a un certo punto scaldano e vanno in tiro, addirittura cambiano, funzionano anche da soli. Io un mese, una volta, con la team, mi sono messo a telefonare gratis per quasi due settimane, di due settimane. Perché non ha compreso un accidente, buono. Oh, adesso sta funzionando bene, siamo tranquilli là. Infatti io, detto, se non funzionava oggi, infatti riuscivo stamattina ad andare a prendere un uovo, si può immaginare. Proprio riuscivo ieri sera, ha trovato una mattina e me lo compro nuovo. E invece, ieri notte tardi, era provato a fare il numero di mia moglie già, e già stava funzionando. Potrebbe pure che era il genitore, forse anche quel genitore magari che è dietro di me, io ce l'ho dietro il ripetitore, capito, se l'avevo di vicino. No, è quello di lavoro, quello dei nipoti, e funzionavano, ecco il punto, è quello lì, capito? Allora, sembra che sia apposta, adesso, per cui meglio così, che non vi abbia il lupo. Si deve fare un telefonista, sono vero, il capanome, bello, grande, HD, lì dallo spì, poi dallo spì che c'è via, perché lì è andato lo spì, non se non l'acqua, non lo spì, è stato lo vero, ma bello, bello per la mente, quel telefonino, è HD. Qual è? Se il capano vero, HD, il telefonino, l'ultimo che vedi, è il capanome. Ehi, dati che sono telefonini buoni, dai. Perché certe volte anche un telefonino costa poco, potrebbe funzionare più bene di quello che costa molto. Certe volte succede anche così particolari, ho visto quel buio. Ah, questo qua è il mio. C'ho 4 anni, ma sempre costato bene, quello mia moglie è più anziano. Ha costato bene lo stesso. Non c'è strano che tutti e due questi qua hanno fatto questo difetto. Ma forse era il ripetitore, secondo me, forse era il ripetitore, non lo so, non lo so, bravo, ogni tanto succede qualche cosa che c'è qualche cosa che non funziona bene, però l'importante è che tutti vanno le cose vanno bene prima o poi, dai. Ah, quello sì, comunque se vuoi pigliare il coso, il telefonino, il capanome, no? Dice che ho passato nel 2006, e funziona, però non funziona benissimo, ha mai dato dei problemi, e quindi veniva questo. Ho fatto le passate, i dati da un telefonino all'altro, c'è bisogno di fare molto piacere, passantino, eccetera, eccetera, e di collegazione. Si manda i dati da uno all'altro, comunque hai portato la pandemia, capisci? E funziona subito, è per te. Io per telefono, è HD, io è HD. L'ho preso più che altro perché a me a volte, quando vado a fare i lavori, quando ti dico la tasca che suona, a volte magari mi capisce che ti cade in terra, va a far culo. Adesso lo faccio 180, ma 4-5 anni fa, 4-5 anni ce l'ho così, è passato sempre, era sempre perfetto, mai ha fatto nulla, mai, solo che adesso è successo un particolare, per cui, finché questo funziona bene, va bene, certo, se dovessi di nuovo fare una cosa del genere, fine del culo dal muro, che se me lo compro, però già sta funzionando per quel tranquillo là. Perché non facciamo fare un paio di tanti, e c'era per il costo, e un lopantino, non c'era niente, e uno deve comprare telefonia e quant'è, non vale la pena, e c'era una casa così, io ho speso poco, mi ha speso di poco, l'ultimo che ho visto adesso è il capanone, io ho visto da quello di mio papà, io pure, ragazzi, è stato davvero, mi va bene, quando quello che devo fare, mi sento telefonato, su internet, cioè di Facebook, a me di Instagram, tutti quelli che si fanno non fa niente, si parlano di questa è la roba che bisogna pagare, questa serve mandare messaggi e cosa del genere, non me ne so che nulla, quindi tutto bene come sto. Semplice, il telefonino al banco, solo per telefono. Altre cose non le vuoi. Beh, quando è così, va bene ugualmente, capito? E io uso, noi il telefono lo usiamo molto, specialmente adesso quello di casa, però tolto, no? Cazzo, anche era tutti i tassi che ti trovate, capito? Allora ho ricato l'ho tolto e ci abbiamo i telefonini e siamo i telefonini, capito? E per cui va bene così, però il telefono lo usiamo noi, perché magari quando scendo in campagna per dire, capito? Certe volte scendo magari solo e allora ci sono anche due o tre telefonate, mi fa. Oppure viceversa, anche mio figlio mi telefono, eccetera, eccetera, ragazzi, per cui il telefono io lo uso e... Sì, io WhatsApp non è utile, basta, mi manda per credito, non c'è una faccia per mandare credito, non si ma non mi apporta nulla, dei messaggi, filmati, no, non me ne frega niente, l'ho eliminato tutto, quindi chi mi vuole... Sono su Messenger, manda lì il messaggio, il filmato, fa quello che vuole, sono gratis lì perché sono accesso con computer di fronte a casa mia, quindi non me ne fate più da me, non spendo più soldi io per il telefono, non è che la faccio, no. Vabbè. Allora, grazie per mi sta chiamando mia moglie, dai, ci sentiamo dopo. Sì, è una cosa, ok, alle prossime, ciao. Hola, hola, hola. Sí. Toca. Hey.